lei che tanto sommirei non amano lassù lassù. Ora non ama più, ora non ama più. Meravigliano lei, meravigliano lei. Se va al mondo per natura tutto passa e non dura, tutto passa e non dura. Forse che mi ingannò perché in me non trovò tanto vento e bontà, oltre quanti lei è beltà, quanti lei è beltà. Non rido d'amor, non rido d'amor, e pare voli cor. Ah, non può donna amante, ah, non può donna amante esser bella e costante, esser bella e costante. Non mi vuol disperar, se non mi vuol amar, pente buon coverò, ol coverò. Chi nessun l'amerà, chi nessun l'amerà. Vostri instabil desir, vostri instabil desir. Amare con mente scaltra, vu amare con mente scaltra, oggi una di man l'altra, oggi una di man l'altra.